Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona Pasqua. Quanti si ascoltano? Abbiamo cominciato con l'Alleluia di Handel, un brano musicale intonato al giorno di oggi, così come intonato al giorno di oggi. Lo ringraziamo molto, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano. Buona Pasqua. Buona Pasqua e a lei e a tutti gli ascoltatori. L'Alleluia, l'Alleluia è un brano di gioia, oggi è un giorno di gioia. Ecco, dobbiamo dire che registriamo questa puntata il giorno prima e ringraziamo Sua Eminenza di averci accolto la vigilia di Pasqua, va in onda però nel giorno di Pasqua, un giorno di grande gioia. Cosa vuol dire buona Pasqua? Vuol dire che l'uomo in cui il desiderio di compimento, di felicità mai si spegne, trova nell'avvenimento della passione, della morte e della risurrezione di Gesù Cristo una garanzia certa, se la segue, per realizzarsi. Quindi che la Pasqua entri nel cuore, nella vita di ogni persona. Buona Pasqua vuol dire questo. Buona Pasqua vuol dire, al di là di tutti i limiti, di tutte le fragilità, e diciamo anche la parola che oggi non si vuol sentir dire, di tutti i tuoi peccati, c'è la misericordia di Dio che ha assunto un volto, il volto di Gesù Cristo, che è diventato come uno di noi, ha attraversato tutte le umane esperienze, tranne che il peccato, e quindi è lì per farti compagnia, per riscattarti anche dal peggiore dei mali, sempre se tu lo riconosci, e per camminare insieme a te. Non a caso lui si è definito la via, la verità e la vita. Però la risurrezione è un fatto storico di 2000 anni fa. Come parlare all'uomo d'oggi? Come rendere attuale questa realtà, questa, per chi crede, questa realtà che è poi il centro della fede cristiana? Certo, questo è il punto. Lei ha toccato il punto che è stato per la prima volta evidenziato sia da certo illuminismo che da certo romanticismo e che ben condensato in una drammatica affermazione di Lessing. Quando Lessing dice: «Oimè, chi mi farà superare questo orrendo fossato che mi separa dal tempo della vita di Gesù?» Allora, la strada per capire questo sta appunto nella resurrezione. Cosa succede nella resurrezione? La resurrezione non è, come dice bene Benedetto XVI nel suo splendido secondo volume su Gesù di Nazareth, la resurrezione non è la rianimazione di un cadavere che avrebbe poi condotto l'interessato a morire un'altra volta, come fu per Lazzaro. La resurrezione incomincia nella storia, lascia delle tracce imponenti nella storia, dal sepolcro vuoto fino alle apparizioni, ma mediante la resurrezione il Padre introduce Gesù nella dimensione definitiva della vita. Noi la chiamiamo eternità, ma su questa parola spesso ci si confonde perché si pensa solo ad un al di là che per giunta non riusciamo a immaginare, mentre l'eternità è proprio l'essere con il Signore vivente già in qualche modo dentro questa definizione che condurrà, se noi lo vogliamo, al paradiso, nel quale noi saremo sempre con Lui e con tutti gli uomini dentro una possibilità di fraternità e di amicizia senza ombre. Ecco, a questo punto, condotto ad ogni uomo, ad ogni tempo, siamo nella Milano del 2012, certo. Lei è qui da 6 mesi. Cosa vuol dire questa visione, questa realtà teologica incarnata nella realtà attuale? Cosa vuol dire annunciare la resurrezione a Milano nel 2012, in Italia nel 2012? Ma io penso che vuol dire farsi portatori realmente dell'Evangelo, cioè di un buon annuncio. Cosa sta succedendo in questo travagliato passaggio di millennio, in cui noi uomini postmoderni siamo tutti un po' barcollanti per i tanti inediti fenomeni che si stanno producendo, dal mondo della scienza alla civiltà delle reti, alla globalizzazione, al mescolamento dei popoli? Cioè, è come se le grandi questioni che hanno sempre caratterizzato l'uomo, ma che sono state spesso confinate nelle aule dei filosofi e dei teologi, stessero esplodendo a fior di pelle. La gente che non ha più, perde il lavoro, i giovani che non vedono il futuro, le grandi questioni legate al tema dell'amore, al tema della vita, della morte, è come se portassero fuori l'interrogativo del leopardi nel pastore errante dell'Asia: e Dio, che sono? Questa è la domanda, e l'annuncio della resurrezione si innesta lì. Lei ha parlato all'inizio di fragilità, ne parla anche di fragilità delle famiglie, nel contributo che ha scritto ieri per il Sole 24 Ore. La fragilità è un fondo, un termine che denota la caratteristica un po' dell'uomo contemporaneo, questa mancanza di punti di riferimento. Allora, come annunciare un punto di riferimento importante come la resurrezione all'uomo contemporaneo? Secondo me è l'unica strada che noi abbiamo è la strada della testimonianza. Ci vogliono uomini e donne sul cui volto risplenda, come pretendeva sarcasticamente Nietzsche, un pochino di più la fisionomia dei risorti. Cioè, vale a dire, bisogna che i cristiani, coloro che per pura grazia, perché anche loro hanno tutti i difetti, i limiti e i peccati degli altri, documentino che si può amare restando fedeli per tutta la vita, come dice il grande Shakespeare: l'amore non è amore se viene meno quando l'altro si allontana. Si può lavorare con il gusto di una edificazione, si deve condividere tutto ciò che possediamo e tendenzialmente non solo il superfluo con chi è nel bisogno radicale, perché la dottrina cristiana ci insegna che c'è un uso universale dei beni, c'è una destinazione universale dei beni. Si deve avere il gusto di costruire una vita buona dentro la nostra società, giusta, e tutto questo ha a che fare con la risurrezione, perché la risurrezione è la rigenerazione completa dell'io e delle sue relazioni con Dio, con gli altri e con se stesso. E questa testimonianza sarà il centro anche delle giornate mondiali della famiglia di fine maggio. Certamente. Certamente, perché la giornata mondiale della famiglia ha un titolo che è fondamentale, che spesso non viene capito. Dice: la famiglia, due punti, il lavoro e la festa. Perché ha questo titolo? Perché ricerca quell'unità smarrita di cui lei parlava prima, che ci fa stare un po' flottanti a mezz'asta. L'uomo invece ha bisogno di fare l'esperienza dell'unità. Allora, le tre dimensioni costitutive dell'esperienza umana quali sono? Sono l'amore, gli affetti, il lavoro e il riposo. E noi vediamo la famiglia come quel fattore primario che, se si svolge in maniera equilibrata, aiuta, attraverso l'educazione e attraverso l'affezione, l'uomo a saper ben studiare, lavorare, riposare, stare bene con sé e stare bene con gli altri. Incontri. Bentornati a Incontri. Abbiamo ripreso ancora con l'Alleluia di Handel in questa giornata di Pasqua. Siamo con Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, che ringraziamo ancora per essere con noi e per aver accettato il nostro invito. Abbiamo parlato nella prima parte della Pasqua, della risurrezione, dell'importanza centrale di questo evento nella storia, nella speranza di ogni uomo. Abbiamo parlato delle giornate della famiglia che Milano ospiterà anche il Papa a fine maggio. Grandi attese per questa giornata della famiglia. Come sta andando? Come sta andando la preparazione? La diocesi, assieme al Pontificio Consiglio per la famiglia della Santa Sede è molto impegnata già da tanto tempo, ovviamente adesso siamo alle strette finali, però siamo pieni di speranza, è in atto una grande mobilitazione, verranno molte, molte famiglie da tutto il mondo, sono già più di 100 le delegazioni di diversi paesi che si sono annunciate, ci saranno molti cardinali e anche molti vescovi, ma soprattutto ci saranno famiglie, padri, madri, figli, e noi siamo molto contenti perché sono due i grandi poli su cui vogliamo lavorare, riflettere e documentare e proporre in tutta libertà. In primo luogo sottolineare l'importanza della famiglia, che non può essere ridotta a una sorta di privata joint venture, ma è realmente il fatto pubblico primario, e non siamo purtroppo molto confortati dall'assenza di politiche organiche a difesa di questa realtà, e quindi vogliamo che l'attenzione sia messa su tutto ciò che la famiglia significa: la scoperta del bell'amore, capace di fedeltà, rispettoso della insuperabile differenza sessuale, la capacità della procreazione intesa non solo come mettere al mondo, ma come educare e come legare le differenze tra le varie generazioni, il matrimonio, la famiglia che dal matrimonio scaturisce, come questo conduce poi a saper costruire, a saper lavorare anche dentro una dimensione necessaria di sacrificio, e come incontra nel riposo il fattore di equilibrio tra affetti e lavoro. Poi c'è il secondo polo di questo settimo incontro, che è il grandissimo dono che ci ha fatto Benedetto XVI, scegliendo di stare con noi per ben 3 giorni, cosa veramente eccezionale. Quindi è una grande occasione che viene data a tutti, ma in modo particolare a Milano, in un momento in cui Milano si sta riformulando, si deve riformulare. 32.000 bimbi nati qui, di tantissime culture ed etnie, cosa dicono? Dicono che fra 15-20 anni Milano sarà molto diversa. E i milanesi, noi milanesi dobbiamo stare attenti, perché i processi nella storia non ci chiedono il permesso per capitare. Ecco, lei è noto appunto per avere un po' coniato o adattato il termine meticciato di civiltà, adattato il termine a questa realtà attuale. Beh, anzitutto io parlo di meticciato di civiltà, quindi non mi riferisco alla formula più dura e radicale di meticciato che abbiamo visto in altre parti del mondo, penso per esempio il Messico, che è un meticciato di razza, però la parola meticciato fa capire che c'è un aspetto doloroso dentro questo processo, perché il meticciato è un processo, io non lo dipingo come un ideale da costruire, lo dipingo come un fatto che sta succedendo, che noi possiamo cercare insieme di orientare. Allora, come orientarlo? Bisogna orientarlo anzitutto accettando che si sta producendo e individuando bene quali sono i soggetti che devono mettersi al lavoro in questo senso e come debbono farlo. Io ne individuo sempre almeno 3. C'è una prima accoglienza dettata da quel fenomeno comune a tutti gli uomini che si chiama la compassione, nel senso profondo della parola, no? Per cui se sbarcano a centinaia sulle nostre rive, chi ha una sensibilità dà una mano, come se io cado dalle scale, anche se lei non è un medico, mi soccorre. E questo è un po' il compito del volontariato, che la Chiesa fa molto. E ben diverso il compito, deve essere il compito della politica. La politica deve governare il fenomeno. Questo è un fenomeno che va governato a livello europeo, a livello mondiale, quindi deve cercare delle regole di giustizia in tutti i sensi, sia per rispettare fino in fondo e profondamente le persone che arrivano, sia per accompagnare un inserimento equilibrato, rispettoso del nostro popolo e delle nostre tradizioni, ma la grande parte la sta già facendo la società civile, cioè la famiglia, la scuola, il quartiere, gli oratori, le parrocchie. Quanti oratori anche qui a Milano hanno già un'alta percentuale di extracomunitari, così le scuole, eccetera. È lì che lentamente si trova la strada, e io sono certo che da questo processo, che ultimamente è guidato, ne sono convinto, dalla provvidenza, verrà una Milano futura. Ecco, in questa prospettiva vorrei tornare sulla famiglia, sì. Che tra l'altro è uno dei temi delle interviste di Aldo Cazzullo raccolte nel libro sulla vita buona, e qui viene indicata la famiglia come fattore di progresso. Sì. E di fronte alla crisi economica, una crisi che rende fragile, una crisi che lo stesso Papa nel suo discorso alla Via Crucis del Venerdì Santo ha appunto detto, la fragilità della famiglia di fronte alla precarietà, di fronte alle difficoltà. Ecco, come può essere fattore di progresso, come può anche essere una soluzione, se non una soluzione, comunque un passo in avanti per affrontare una crisi che è molto difficile, che tocca da vicino tutti? Per me è una questione decisiva, e la ragione per cui la considero decisiva sta nei fatti. Che cosa è successo in questi primi anni della grave crisi economica? Che la famiglia si è sobbarcata spessissimo la maggior parte del benessere, del welfare, soprattutto dei figli. Insomma, già lì vediamo che ha una funzione sociale, politica ed economica. Certo, molte famiglie adesso sono provate, perché non solo quelle che non possono più risparmiare come prima e quindi garantire un futuro diverso per sé e per i figli, ma soprattutto quelle che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, quelle che sono messe in grave difficoltà in se stesse, e anche per i figli in particolare sono messe in grave difficoltà le famiglie numerose e le famiglie che escono da separazioni e da divorzio, che le statistiche dicono appunto che la difficoltà tra queste famiglie sta aumentando moltissimo. Stanno nascendo all'interno delle nostre Caritas, per esempio, strutture per ospitare padri divorziati che altrimenti non riuscirebbero ad andare avanti anche se hanno un lavoro modesto. Quindi qui si tratta di rendersi conto che le libertà tanto conclamate in una società civile che vuol progredire debbono diventare libertà realizzate. Una politica che non sa fare una gerarchia, che non sa scegliere, anche in un modo un po' profetico, anche rischiando, su quali soggetti della società civile si deve investire. In particolare in Italia, dove la società civile è ricchissima, c'è una vita che pullula dal basso, imparagonabilmente più ricca che negli altri paesi europei. La politica deve fare delle scelte coraggiose, e in questo senso, se promuove la famiglia e la sostiene, come hanno fatto altre nazioni, pensiamo al terribile gelo demografico in cui siamo, pensiamo a quel che ha fatto la Francia, noi siamo già, dicono gli esperti, in un ritardo abissale che non riusciremo a colmare. Allora bisogna decidersi a mettere mano alla famiglia e a mettere mano alla scuola in una maniera diversa. Chi ha il compito del governo deve appunto governare. Come si fa a governare bene? Non si deve pretendere di gestire. La società civile sa gestirsi da sé. C'è un po' di delusione su come ha fatto la politica, di come si è comportata la politica negli ultimi decenni. Sì, c'è delusione. Certamente, ma anche qui senza nulla sottovalutare e senza sottovalutare le responsabilità, però dobbiamo anche tener conto che c'è una crisi radicale della politica in tutta Europa, che è legata a una difficoltà organica a trovare nessi equilibrati e giusti con il mondo della scuola, il mondo del lavoro, soprattutto il mondo della finanza. Quindi è come necessaria una rigenerazione per la stanca Europa. I cattolici in questo senso hanno una grande responsabilità, un grande spazio, e forse devono impegnarsi un po' di più? Sì, io penso di sì, anche se non tocca a me parlare di forme e di strutture. Certamente i cattolici, quando sono autentici, diceva il Peggy, sono cittadini per eccellenza, non perché sono migliori degli altri, ma perché sono spinti dalla carità a occuparsi della politica. Io mi auguro che questo venga fatto. I modi e le forme toccano i laici, non toccano me. E quindi la speranza comunque di un cambiamento in positivo resta intatta? Io penso di sì, cioè non ci mettiamo le fette di salame sugli occhi, stiamo vivendo un passaggio anche dal punto di vista della situazione di governo, che è assai delicato, e da cittadino medio non è facile vedere il futuro, però io penso che chi è coinvolto in questo passaggio, tutti i cittadini, i gruppi, i corpi intermedi e soprattutto i politici, siano al lavoro per immaginare il futuro con realismo e con saggezza, anche con decisa forza. Realismo, saggezza e forza sono questi i messaggi di cui ringraziamo Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola di essere stato con noi in questa Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie mille, grazie Eminenza, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Pietro Locorte in regia. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona Pasqua.